Buonasera autorità, colleghe, colleghi, signore e signori. La Camera dei Deputati celebra quest'oggi la Giornata Internazionale della Famiglia e lo fa con questo importante convegno organizzato in collaborazione con l'Osservatorio Nazionale sulla Famiglia e con il Forum delle Associazioni Familiari. In primo luogo saluto e ringrazio gli illustri relatori, il Ministro per la Cooperazione Internazionale e l'Integrazione, Andrea Riccardi, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Elsa Fornero, il Ministro per la Coesione Territoriale, Fabrizio Barca, il Presidente del Forum delle Associazioni Familiari, Francesco Belletti, il Direttore Scientifico dell'Osservatorio Nazionale sulla Famiglia, Pierpaolo Donati. Come emerge chiaramente dal rapporto dell'Osservatorio per il biennio 2011-2012, che viene oggi presentato, come emerge chiaramente dal rapporto, l'Italia ha certamente la necessità di valorizzare pienamente quella che si è soliti chiamare come soggettività sociale della famiglia, come condizione o precondizione per rafforzare il tessuto connettivo della nostra società. I giudizi sull'evoluzione in questi anni della famiglia possono essere legittimamente diversi, anche molto diversi, sotto un profilo culturale. Ma credo che sia comunque fondamentale ribadire la centralità dell'istituto familiare all'interno della vita sociale, in opposizione a ogni possibile tendenza all'indebolimento dei legami affettivi e solidali tra le persone e in opposizione all'avanzata di quel particolare tipo di individualismo, all'insegna della deresponsabilizzazione e dell'egoismo, che contribuisce gravemente a indebolire le basi stesse della convivenza collettiva. E in proposito va ribadito che l'alta funzione morale e sociale della famiglia rappresenta un valore condiviso nella società italiana, valore che trova diretta e solenne affermazione costituzionale negli articoli 29, 30 e 31. L'articolo 31, in particolare, non a caso, impegna le istituzioni della Repubblica ad agevolare, virgolette, con misure economiche ed altre provvidenze, la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi. La necessità di questo impegno si riafferma con particolare forza e urgenza nell'Italia di oggi. Dalla famiglia scaturisce infatti una delle forme più rilevanti di capitale sociale. Le forme di solidarietà e di aiuto offerte dalle famiglie ai propri componenti in difficoltà si affiancano ai servizi del welfare pubblico nel dare sostegno alle persone più direttamente colpite dalla crisi economica di questi anni. Il contributo delle famiglie italiane alla stabilità economica e sociale del Paese si esprime inoltre alla loro propensione al risparmio, come testimoniato dal loro minore indebitamento rispetto alla media dell'area euro, ancorché ci sia purtroppo da mettere in evidenza che il perdurare della crisi ha ridotto e di molto la capacità delle famiglie, e soprattutto quella delle famiglie più giovani, di accantonare risorse per il futuro. Ma qui si apre una grande questione, che è insieme etica, sociale, politica. Fino a che punto è lecito e fino a quando è lecito e possibile affidarsi all'idea, o se vogliamo al comodo stereotipo, della famiglia come ammortizzatore sociale? In quante circostanze viene ribadito che la famiglia è il principale ammortizzatore sociale? Si tratta ovviamente di una domanda retorica, perché uno dei grandi obiettivi delle istituzioni deve essere proprio quello di alleggerire il peso che grava sulle famiglie e di valorizzare attivamente la loro funzione sociale. Alla famiglia, come osserva il Ministro Riccardi nella prefazione al rapporto, si è chiesto molto in passato e tanto si chiede ancora oggi. Riconoscere però questo ruolo non è sufficiente se non si affiancano efficaci politiche di sostegno. E credo che queste parole del Ministro siano la risposta più corretta alla domanda retorica che ho posto all'inizio delle mie considerazioni. È venuto dunque il momento di innovazioni incisive e concrete nel campo delle politiche familiari, innovazioni che restituiscano coerenza e continuità all'azione pubblica in questo fondamentale ambito della nostra società. In questa direzione rappresenta senza alcun dubbio un passo avanti ed un passo di rilievo il Piano Nazionale per la Famiglia, di cui è promotore il Ministro Riccardi e che ha recentemente avuto il parere favorevole dalla Conferenza Unificato Stato, Regioni, Province Autonome. È la prima volta, infatti, che le politiche per la famiglia sono concepite in un quadro organico e unitario e viene finalmente superata la logica della frammentazione degli interventi, interventi certo necessari, ma fin qui attuati senza una considerazione complessiva del ruolo che la famiglia svolge all'interno della società. È importante evidenziare che tra i principi ispiratori del piano, che prevede peraltro misure immediate a sostegno dei servizi per la prima infanzia e per l'assistenza domiciliare agli anziani, è sancito al primo punto quello della cittadinanza sociale della famiglia. L'obiettivo, come osserva il professor Donati nel rapporto, è quello di, virgolette, promuovere interventi che favoriscono la costituzione e lo sviluppo della famiglia come soggetto sociale avente diritti propri. Si tratta di un salto di qualità culturale che avvicina l'Italia ad altri grandi paesi europei che da anni hanno avviato linee innovative di intervento in questo primario settore della vita sociale. E credo che sia superfluo ad una platea così avveduta rilevare che la misura dei benefici economici dipende dall'entità delle risorse pubbliche disponibili. Ed è in tal senso auspicabile che l'opera di riequilibrio dei conti dello Stato, di razionalizzazione della spesa, di creazione delle condizioni per la crescita, possano, tra i vari risultati attesi, favorire anche l'adozione di interventi sempre più incisivi in favore delle famiglie. Ma è comunque fondamentale superare una mentalità meramente assistenziale e considerare la famiglia in una nuova e più evolutiva prospettiva, cioè come fattore di crescita su cui investire e non più, o non più soltanto, come una emergenza da affrontare al di fuori di un piano complessivo. La famiglia va insomma pensata come una grande ricchezza del Paese, una risorsa che deve essere valorizzata in un quadro di cooperazione tra pubblico e privato e nella inclusione degli organismi intermedi di solidarietà e volontariato che agiscono nelle realtà sociali. In questa necessaria opera di promozione sociale, particolare attenzione va rivolta ai giovani e alle donne. In particolare, le madri che lavorano devono ricevere quel sostegno e quell'aiuto necessari ad alleggerire il peso della loro duplice responsabilità. Ed è opportuno in tal senso ricordare che il più basso livello dell'occupazione femminile in Italia rispetto alla media europea rappresenta un grave fattore di ritardo per la nostra società. L'esperienza di altri grandi paesi del continente ci insegna che evolutive politiche familiari camminano di pari passo con più alti livelli occupazionali delle donne. Va da sé che la questione deve essere affrontata, oltre che combattendo ogni forma di discriminazione e pregiudizio sui luoghi di lavoro, anche favorendo l'evoluzione dei modelli culturali e degli stili di vita familiare. Da questo punto di vista è ad esempio auspicabile che un numero maggiore di padri usufruisca dei congedi parentali previsti dalla legge. Anche in questo caso c'è purtroppo da registrare un ritardo, come risulta dai dati ISTAT. La percentuale dei padri italiani che utilizzano tale istituto è di gran lunga inferiore alla media europea. E credo vada espresso un sincero apprezzamento al Governo e al Ministro Fornero in particolare per aver inserito nel disegno di legge sulla riforma del mercato del lavoro il congedo di paternità obbligatorio di 3 giorni entro i primi 5 mesi di nascita del figlio del lavoratore. È una disposizione che sicuramente favorisce la cultura di una più ampia condivisione della cura dei figli all'interno della coppia. Infine, per quanto riguarda i giovani, è un'anime convinzione che una politica tesa a garantir loro indipendenza economica e opportunità di vita sia di grande valore strategico per il futuro della famiglia, oltre che naturalmente per quello della società. In altre parole, l'azione in favore della famiglia deve esprimersi anche nel favorire la formazione di nuove famiglie, il che vuol dire nel concreto promuovere l'emancipazione e l'autonomia dei giovani. E come è purtroppo noto, un tale processo si è negli ultimi anni indebolito ed è stato ostacolato dalle troppe rigidità e dei troppi ritardi presenti nel sistema italiano. Rigidità e ritardi che sono ben riassumibili in questo paradosso. Se ieri nell'Italia molte persone erano costrette in ragione delle difficoltà economiche e delle scarse opportunità sociali a diventare adulti troppo presto, era in qualche modo l'Italia dei nostri padri, oggi, nell'Italia dei nostri figli, molte persone sono costrette, per lo stesso tipo di ragioni, a diventare adulti troppo tardi. È urgente quindi rimuovere tutte le contraddizioni e i fattori di ritardo che pesano gravemente sul futuro dei nostri figli e quindi sul futuro di tutti. La soluzione di questi problemi così complessi passa certamente per misure volte a promuovere l'occupazione giovanile, la formazione professionale e anche un mercato del lavoro che sia più favorevole ai giovani, unitamente a tutti quegli interventi sociali tesi a favorire l'autonomia dei nostri ragazzi. E penso, ad esempio, alla promozione dell'autonomia abitativa attraverso misure di agevolazione dei mutui o delle locazioni. In conclusione, il benessere della famiglia deve essere oggetto di una sempre più elevata attenzione e di un sempre più intenso impegno da parte delle istituzioni, delle forze politiche, di quelle sociali, e ciò deve avvenire nella consapevolezza che la vitalità dell'intera società si misura anche e soprattutto con la vitalità del luogo fondamentale e originario in cui si svolgono le più profonde relazioni umane e affettive. E sono certo che gli autorevoli interventi nel dibattito di oggi offriranno interessanti motivi di riflessione e notevoli contributi di conoscenza su un tema di cruciale importanza per il futuro della nostra Italia. E lasciatemi anche dire in conclusione che sono certo che dagli interventi si potrà scrivere una pagina di quella bella politica che non è fatta soltanto di alchimie e di elucubrazioni, ma è fatta di analisi e di risposte concrete a problemi reali. Grazie. Prende ora la parola il ministro Andrea Riccardi. Grazie, signor Presidente, per aver voluto ospitare in questa cornice prestigiosa la conclusione della giornata che abbiamo aperto stamattina presso la sala polifunzionale. E grazie per le sue parole che ci introducono su un tema così cruciale in questo momento non facile per il nostro Paese. Il rapporto biennale 2011-2012 sulla condizione familiare in Italia ci aiuta ad andare oltre su quello che sappiamo della famiglia italiana, perché crediamo di sapere molto sulla famiglia italiana, ma c'è tanto da scoprire, oltre il divario esistente tra il tanto che andrebbe fatto e il non abbastanza che è possibile fare. Mi sembra infatti che il nostro rapporto individui alcuni percorsi di intervento per il medio e lungo periodo e ci inviti a concentrarci per l'immediato sulle politiche che valorizzano le relazioni familiari e tra generazioni, che valorizzano la famiglia come centro di rapporti e di interazioni che fanno tessuto e che rigenerano quelle reti di cui manca la nostra società divenuta troppo liquida. E siamo nell'anno europeo dell'invecchiamento attivo in cui si pone con forza non solo il problema dell'invecchiamento attivo, ma si pone con forza il problema del rapporto tra le generazioni, che è anche un problema della famiglia. La famiglia, in effetti, come il Presidente ha detto, non è solo un fatto privato, pur essendo privatissimo. È una risorsa vitale per l'intera società in un mondo in cui donne e uomini vivono spesso in modo duro, sotto pressione. Un mondo, come dice bene Todorov, fatto di gente che sta divenendo sempre più spaesata. E allora la famiglia è una risorsa che ripartisce, non solo che ripartisce meglio i pesi della vita, ma che orienta efficacemente nel labirinto delle tante prospettive, opportunità, ma anche disperazioni del nostro tempo. La famiglia è una risorsa, ma non nascondiamocelo, è una risorsa in difficoltà, è una risorsa sotto affanno, è una risorsa in crisi, sia per i limiti dell'azione legislativa, sia per il prolungarsi di una congiuntura economica negativa. Ma c'è un'altra crisi, quella che io considero essere la madre della crisi, cioè c'è una crisi più in profondità. E lo specchio di questa crisi, per usare una bella espressione del professor Donati, che ringrazio per il decisivo contributo che ha dato a questo rapporto, c'è una bella espressione, la morfogenesi della famiglia. Lo scrive Donati nel saggio di apertura dei due volumi che oggi presentiamo. Scrive: la natalità tende a essere bassa, aumenta il numero degli individui senza famiglia, il che comporta, nel caso degli anziani, drammi e situazioni sempre più difficili da gestire. Cresce il numero degli individui con famiglie frammentate. È vero, è vero. La vita diviene sempre più individuale, ma soprattutto tante reti si spezzano, tante reti si ritraggono, si rattrappiscono. La gente è più sola. Questo è il punto. Infatti stiamo vivendo, non solo in Italia, ma in Europa e in Occidente, un passaggio molto delicato, quasi una mutazione antropologica che avviene lentamente, ma che è cominciata da decenni e che registra oggi un'accelerazione. Quelle istanze comunitarie, familiari, solidali, si trasformano, talvolta si appannano, spesso scompaiono, e punti tradizionali, ma anche recenti, di ancoraggio vengono spesso lasciati e la navigazione della vita diventa una navigazione più solitaria. Il sociologo francese François de Sanglier suggerisce una bella immagine. Dice: le ancore vengono issate con la speranza di poterle gettare nuovamente e in tutta sicurezza altrove, e di fatto possono essere gettate con altrettanta facilità in molti porti diversi e distanti tra loro. C'è in fondo un'idea che il mio successo sarà forse più garantito se mi lego di meno, se sono meno solidale e tante volte nemmeno con una famiglia. Del resto, quante sono le reti sociali in crisi nel nostro paese, che si sono ritirate, che si sono dissolte? Pensiamo alla vicenda, e lo dice un vecchio studioso, quale sono io, di partiti politici, pensate alla vicenda delle reti che erano i partiti politici italiani nella nostra società e al loro impatto nelle periferie del nostro mondo. Non voglio entrare in tutte le sfaccettature del discorso, voglio solo notare come oggi in Occidente l'uomo e la donna siano più soli, e ci vorrebbe un nuovo grande storico come Delumeau per scrivere della nuova paura e della nuova solitudine in Occidente. È il portato di tanti fattori convergenti. La stessa famiglia appare un legame troppo pesante. Secondo i dati provvisori del censimento 2011, i nuclei familiari sono oggi più di 24 milioni. Ma guardiamoli questi nuclei. Secondo rilevazioni Istat del 2010, 7 milioni di italiani vivono soli, famiglie mononucleari. Questo ha una ricaduta di solitudine per chi è fragile, povero, anziano. Conoscono bene questa difficoltà gli anziani scartati, come dice Bauman, e soffrono nella solitudine di più quelli che restano fuori dal mercato del lavoro, giovani, disoccupati e altri. E allargando lo sguardo, come scrive Marcelli, possiamo immaginare le pesanti ricadute sui conti economici futuri. Non sarà la stessa cosa garantire assistenza e cura a un esercito di single o a una rete di nuclei caratterizzati da solidi legami interni. La verità è che non si può parlare della famiglia in modo isolato, in modo moralista. Occorre riflettere su quella che è e che sta diventando la cultura della famiglia nel senso di cultura del legame nel nostro paese. Le difficoltà, talvolta la fine, di quella grande rete che è stata per la lunga durata della società italiana lo spazio normale di riferimento, pone problemi. Vediamo oggi, in un contesto non facile, in presenza di una crisi economica, come l'assenza di reti di riferimento infragilisca e renda vulnerabili. Da soli siamo tutti individui che riescono a realizzare di meno le proprie potenzialità. Da ciò, notava qualche giorno fa Ilvo Diamanti su Repubblica, la differenza sostanziale tra questa crisi e le crisi del passato. Ieri, scrive Diamanti, e ancor più l'altro ieri, investivamo nella famiglia. Oggi questo modello sembra in difficoltà, i suoi meccanismi si sono logorati. Per questo io insisto, c'è una crisi nella crisi, è una crisi di lungo periodo, una crisi umana, una crisi antropologica. E concludeva Diamanti, quello che ci penalizza è il deficit di comunità. Quello che ci penalizza, diceva, è l'incapacità di costruire relazioni con gli altri. Non devo insistere, e lo ha già detto il Presidente, altri lo diranno dopo di me e meglio di me, in Italia siamo indietro per quello che riguarda il sostegno alle famiglie, dai servizi alla prima infanzia, alle misure di conciliazione con il lavoro, al sostegno della paternità-maternità, alle politiche per le famiglie con anziani e malati. È vero che negli ultimi giorni e negli ultimi mesi abbiamo subito un'accelerazione, ma indietro restiamo. Per questo ho considerato come prioritario uno sguardo attento, partecipe alla problematica familiare, contribuendo a mettere insieme il massimo possibile in un tempo di ristrettezze di bilancio. Il Dipartimento delle Politiche per la Famiglia, che è legato al Ministero che dirigo, si è impegnato perché i fondi disponibili venissero vincolati a vantaggio dei servizi socioeducativi per la prima infanzia e dell'assistenza domiciliare agli anziani. Il che vuol dire tutelare quella grande risorsa che è per la generazione più anziana e per i bambini la famiglia. Ed è noto come con un lavoro interministeriale sia stato possibile pochi giorni fa reperire nuove e più cospicue risorse. Porterò a breve in Consiglio dei Ministri per la sua formale adozione il Piano Nazionale per la Famiglia, approvato già in sede di conferenza unificata. È un importante segnale, anche al di là dei singoli interventi in esso previsti. Devo riconoscere che questo piano e l'iter di questo piano era cominciato precedentemente questo governo e si è concluso in un modo che giudico soddisfacente. È la prima volta che nel nostro Paese si adotta uno strumento che fornisce linee di indirizzo omogenee in materia di politiche familiari, superando una consuetudine di interventi disorganici e frammentari. Ma, riprendendo quello che dicevo poc'anzi, non siamo forse anche indietro sul piano culturale? Io ricordo bene come gli storici e i sociologi inglesi degli anni 70 e 80 scrivevano di un'Italia come un paese malato di familismo o di familismo amorale. Oggi noi ci interroghiamo su come rivitalizzare quelle reti che fanno tessuto, che sono protezione, che danno motivazione in un mondo, in una società investita dai venti freddi della crisi. Quelle reti che, come già notava l'antropologa americana Jacobs, autrice di Vita e morte nelle grandi città, quelle reti che sono un capitale sociale imprescindibile, senza cui non c'è ripresa. La famiglia è il luogo della collaborazione e della società e della solidarietà, ma è anche il luogo in una società in cui troppo si monetarizza, luogo della gratuità, tra persone, luogo della gratuità tra generazioni. Ma, e lo ripeto, e credo su questo siamo tutti d'accordo, abbiamo troppo pesato e abbiamo troppo caricato sulle spalle, oggi molto più fragili, della famiglia. I due volumi sono molto interessanti e ci fanno conoscere l'Italia attraverso lo specchio, attraverso l'osservatorio della famiglia, ci fanno conoscere l'Italia quotidiana. E mi ha molto colpito il saggio di Elisabetta Carrà sulle famiglie fragili nel secondo volume. Nota la perdurante vitalità delle famiglie come risorsa nel contrasto all'esclusione sociale. Famiglie che superano la propria fragilità, sostenendo altre famiglie, famiglie straniere, attive nel processo di integrazione, perché proprio in questi mesi, lavorando sui temi dell'integrazione, ci siamo resi conto come la famiglia degli immigrati faccia la differenza nel processo di integrazione. Cito appunto Elisabetta Carrà che scrive: «Le relazioni familiari recuperano situazioni drammatiche. A fronte di una fragilità crescente emerge paradossalmente una certa robustezza della famiglia, la funzione di mediazione tra generi e generazioni che essa riesce a esprimere. Famiglie che salvano famiglie. Tutte le esperienze mostrano che le relazioni familiari rappresentano un patrimonio sociale di valore incalcolabile». Io vorrei concludere su questo. Io vorrei concludere su questa grande ricchezza della famiglia, che può essere la base di quell'alleanza italiana di cui parliamo oggi, una grande alleanza che coinvolga istituzioni, famiglie, società e cultura. E abbiamo, cari amici, in questo rapporto biennale, io credo, un importante punto di riferimento conoscitivo, certo un punto di partenza che può aiutarci in questo processo di alleanza anche rigenerativo del tessuto sociale italiano. Grazie. Grazie al Ministro Riccardi. E ora la parola al Professor Pierpaolo Donati, Direttore Scientifico dell'Osservatorio Nazionale sulla Famiglia. Nella sua introduzione, Professore, scrive testualmente: «Se un paese non ha un forte tessuto connettivo, costituito da famiglie solide, non c'è rimedio economico e politico che possa funzionare, perché il problema, parole sue, giace nel fatto di consumare il capitale umano e sociale delle famiglie e nel non riuscire a rigenerarlo». La presenza a questo convegno di tre ministri autorevoli del governo Monti lascia intendere che c'è consapevolezza da parte dell'esecutivo della importanza di agire, come diceva il ministro Riccardi, non soltanto nei confronti della crisi economico e finanziaria attraverso i tradizionali canali già sperimentati o ipotizzati, ma anche di agire attraverso nuove politiche familiari. Ma, professor Donati, leggendo il rapporto, è sufficiente la consapevolezza che certamente il governo mostra di avere o servono davvero delle politiche incisive? E soprattutto queste politiche incisive, in ragione della conclamata penuria di risorse, come farle decollare? a quale livello della nostra organizzazione sociale innestarle. In altri termini, il ruolo degli enti locali, la prima istituzione che si presenta al giudizio del cittadino, che importanza strategica può avere? È ovviamente una domanda retorica, perché chi ha letto il rapporto la risposta ce l'ha ben chiara. Grazie. Grazie Presidente Fini, soprattutto per l'ospitalità e per l'importanza che ha voluto dare a questo evento con la sua presenza. Grazie al Ministro Riccardi che ha sostenuto le attività dell'osservatorio da cui io faccio riferimento e che qui rappresento. Grazie ai ministri che sono voluti intervenire. Io brevemente, ho 10 minuti, presento il rapporto biennale come compito istituzionale dell'osservatorio nelle sue componenti, cioè l'assemblea dell'osservatorio, il comitato tecnico scientifico e il dipartimento delle politiche familiari della presidenza del consiglio. È stato un lungo lavoro di praticamente 2 anni e mezzo, quasi 3 anni di attività, se includiamo il periodo della pubblicazione, e contiene una parte documentativa, come è nostro compito fare, sulla situazione sociale, economica, demografica del Paese, aggiungendo le proiezioni al 2030 per quanto riguarda gli aspetti demografici, e però anche contiene le proposte al legislatore, quello che il Presidente Fini appunto richiamava in questo momento. Tagliando un attimo le premesse che avevo preparato, direi in risposta alle suggestioni del Presidente Fini che bisogna prendere consapevolezza, cosa che credo nella classe politica, diciamo, degli ultimi 30 anni globalmente intesa, prendere consapevolezza delle basi demografiche della crisi del welfare, dello Stato, della politica, dell'economia e così via. Mi pare che poca consapevolezza ancora ci sia sul fatto che è il cambiamento della struttura demografica della popolazione, e in specifico della struttura delle famiglie, che rende problematico il futuro del welfare in Italia, il futuro del mercato del lavoro, il futuro del sistema pensionistico e via di questo passo. Non mi pare che negli ultimi anni ci sia stata un'analisi sufficientemente attenta al fatto che quando una popolazione si comporta come quella italiana negli ultimi anni, le tendenze sono pressoché, come dicono i miei colleghi americani, demografi e sociologi, tendenze suicidogene. E vorrei ovviamente indicarvi tutti quelli che sono gli elementi, i fattori che sostanziano questa affermazione. Quindi la prima consapevolezza è comprendere che se non riattiviamo le basi demografiche della società italiana, è vano cercare crescite economiche o innovazioni del sistema politico, perché sono le stesse basi demografiche che non lo consentono. Pensiamo solo a un fattore, l'ampiezza media della famiglia. L'ampiezza media della famiglia italiana si è ridotta a 2,4, due componenti, 2,4, ma molte aree del Paese sono demograficamente morte. Perché quando una serie di comuni, come il caso di un'area del Piemonte, va oltre il 35% di anziani, ultra 65 anni, demograficamente quella regione è morta, non riesce più a riprodursi. Pensiamo a certe situazioni, io vengo dalla città di Bologna, quant'è la ampiezza media della famiglia a Bologna in questo momento? 1,9. Non arriva a 2 persone. Non arriva a 2 persone vuol dire che cosa? Vuol dire tutta una serie di altre realtà che possiamo sintetizzare molto brevemente così, cioè aumentano le coppie senza figli, ormai sono la maggioranza statisticamente le coppie senza figli rispetto a quelle con figli. Naturalmente il tasso di natalità è molto basso, anche perché i tassi di nuzialità sono crollati, sono la metà di quelli che erano 40-50 anni fa. Non parlo delle separazioni e dei divorzi, che pure sono in aumento, ma non è quello, a mio modo di vedere, il problema. Il problema vero è lo spappolamento della struttura demografica del Paese, nel senso che l'invecchiamento della popolazione, che è progressivo, porterà a un numero sempre crescente di anziani, in particolare non autosufficienti, soli, isolati, mentre i giovani non riescono a fare famiglia. Le coppie giovani hanno dei grandi problemi a fare famiglia, quindi dilazionano il matrimonio, e l'età media di matrimonio sale ancora, siamo a 30 per le donne, verso i 31, 33 e oltre per gli uomini, che significa che i figli si fanno a un'età molto avanzata, il che significa che si saltano intere generazioni nella riproduzione della popolazione. Dunque abbiamo questo sorta di stretching della popolazione, invecchiamento da un lato, difficoltà dei giovani di fare famiglia, di entrare in una logica familiare, e le proiezioni al 2030 del professor Blangiardo ci descrivono una situazione di arrivo molto pesante se non invertiamo le tendenze. Ed è chiaro che con una struttura della popolazione di questo genere, ripeto, avremo difficoltà non solo per gli italiani ma anche per l'integrazione degli immigrati. La domanda che uno si pone è: ma queste tendenze demografiche sono scelte personali, individuali, oppure invece no? È chiaro che gli individui scelgono, le persone scelgono, ma non sono scelte veramente private, perché in gran parte sono condizionate dalla logica del sistema, dalle regole sociali, da tutto il nostro mondo di distribuzione delle risorse, quindi dal sistema fiscale, a come è trattato il lavoro, a come sono organizzati i servizi e così via. La realtà appunto è che quando le condizioni ambientali di contesto vanno incontro alla famiglia, le famiglie rispondono con grande solidarietà, con grande capacità inventiva, mobilitazione. E questo l'abbiamo dimostrato nel secondo volume, soprattutto del rapporto, dove si parla dei casi di buone pratiche nella conciliazione famiglia-lavoro, nei congedi genitoriali, nei buoni servizi, nell'assistenza domiciliare integrata, nei nuovi modelli, diciamo, di servizi per le famiglie fragili. In queste buone pratiche si dimostra appunto che è cambiando il sistema relazionale in cui le famiglie sono contestualizzate che si mobilitano quelle capacità, quelle capabilities, come direbbe Amartya Sen, quelle enhancement, quella capacità di empowerment delle famiglie, che è il sistema generale che in questo momento in Italia impedisce di far fiorire. I congedi genitoriali, ad esempio, i dati del rapporto sono gli ultimi che io conosca fatti in maniera, come dire, molto accurata sia per il settore pubblico che privato, dimostrano che c'è una utilizzazione bassissima di questi congedi. Solo il 4,9 degli occupati nella pubblica amministrazione, nel settore pubblico, utilizzano i congedi genitoriali, e solo l'1,8 nel settore privato. Questo già indica che nel settore privato la famiglia, come dire, è considerata ancora meno, se vogliamo, dal punto di vista della conciliazione, che nel settore pubblico. Non è un giudizio di valore, è una constatazione, come dire, statistica, e che sarà necessario allargare, come già il ministro Fornero ha fatto, una sensibilità e una preoccupazione per questi congedi. Ma qual è la logica? Io qui voglio essere sintetico e dire appunto qual è la logica con cui noi possiamo affrontare una situazione così preoccupante, veramente preoccupante, come quella della famiglia italiana. Lo ha ricordato il Presidente Fini in inizio. Riconoscere la cittadinanza sociale della famiglia. Ma che cosa vuol dire in concreto? Vuol dire riconoscere il ruolo di mediazione che la famiglia ha tra l'individuo e la società. Questi compiti di mediazione, che non sono solo dei genitori per i bambini piccoli che devono entrare in società o per gli anziani che debbono essere, ma anche nella coppia, perché la decisione dell'uno e dell'altro sono condizionate da questo rapporto che si chiama rapporto di coppia. Queste funzioni di mediazione che la famiglia compie di fatto corrispondono appunto a funzioni sociali che richiedono il riconoscimento di diritti propri della famiglia. Il rapporto insiste su questo e il rapporto in appendice riporta anche il Piano Nazionale per la Famiglia che l'Osservatorio ha elaborato nella bozza del giugno dell'anno passato. Diritti propri della famiglia, d'altra parte siamo in pieno articolo 29 della Costituzione. Io devo qui dire che sia l'articolo 29 che il 30 che il 31 non sono ancora stati attuati, sono articoli disattesi. Ecco allora il senso del rapporto, perché come ho detto all'inizio il rapporto è documentativo ma anche di proposta del legislatore e quindi l'osservatorio che in qualche modo qui rappresenta vorrebbe lanciare il messaggio al Parlamento, alle forze politiche, alle forze sociali, economiche e culturali. Il messaggio è il titolo di questo incontro, l'Alleanza Italiana per la Famiglia. Un'alleanza, come ho ricordato anche questa mattina, ha significati molteplici. Non è solo un appello vago a volersi bene, a unirsi per fare qualcosa di buono assieme. L'Alleanza Italiana vuol dire una cosa che è politica e una cosa che è tecnica, un valore politico e tecnico. Quello politico significa che la famiglia non può veder riconosciute i suoi diritti dal sistema politico italiano sull'immediato, perché i partiti politici e gli attori politici in generale non hanno interesse nel breve periodo a sostenere i problemi della famiglia, perché sostenere la famiglia, come dire, ha in termini elettorali, in termini politici, un beneficio, una ricaduta positiva nel medio-lungo termine, se non lunghissimo termine. E quindi tutti i partiti politici, e mi riferisco quindi agli attori politici in generale, devono concordare questa alleanza, nel senso che ciascuno rinuncia a un vantaggio immediato in termini elettorali e politici pur di portare avanti quelli che sono gli obiettivi di solidarietà nei confronti della famiglia. E la seconda invece accezione di alleanza è, come ricordavo già stamani, un'accezione tecnica nel senso che esiste una raccomandazione dell'Unione Europea per la diffusione delle alleanze locali per la famiglia, che hanno un modello molto preciso, cioè un'organizzazione piuttosto complessa per realizzare queste alleanze, che sono delle reti di istituzioni pubbliche e private, di privato sociale, di privato for profit, a livello locale come a livello regionale, comunque là dove si tratta di intervenire con attori diversi, con risorse differenti, che si mettono in rete, che lavorano in rete, le metodologie di rete sono metodologie molto particolari, noi in genere parliamo in maniera vaga, ma invece hanno tutta una loro tecnicalità, potremmo dire. In Germania sono nate e nel semestre tedesco la Germania è riuscita, diciamo, a farne una raccomandazione per tutta l'Unione Europea. Non posso trattenermi su questo, però dietro il discorso dell'alleanza che cosa c'è? C'è il discorso che la famiglia italiana non può più andare avanti con la filosofia degli sconti, dell'assistenza, dell'aiuto nell'immediato, nella emergenza. Chi lavora a livello degli enti locali sa bene che sulle famiglie si interviene soprattutto in termini di emergenza. Questo dovrebbe non essere più una parola nelle politiche familiari, perché le famiglie chiedono essenzialmente giustizia, cioè le famiglie chiedono che nei loro confronti si adottino dei criteri di equità sociale e non degli sconti o dei favori per il momento, per le emergenze, per le evenienze più contingenti. E qui dobbiamo ribadire che il sistema italiano, nel senso del rapporto Stato-famiglia, è un sistema sostanzialmente iniquo, perché si basa su una sussidiarietà alla rovescia, cioè a dire non è lo Stato che aiuta la famiglia, ma sono le famiglie che sovvengono ai deficit e alle incapacità e ai fallimenti dello Stato, come anche del mercato. Quindi la famiglia, da questo punto di vista, e qui sono le analisi che lo dicono, non è una questione né ideologica né strettamente, come dire, di volontà politica personale, ma sono le famiglie che dichiarano l'ingiustizia crescenti e permanenti che esistono nei loro confronti, nel senso che effettivamente non viene osservato nei loro confronti un criterio di semplice giustizia, anche in base a quello che è la Costituzione. Facciamo l'esempio del sistema fiscale. Il sistema fiscale presenta un'ingiustizia strutturale e anticostituzionale, in quanto le famiglie vengono tassate non in base alla loro capacità contributiva, come la Costituzione richiederebbe, ma vengono invece tassate in base ad altri criteri che rendono più pesante la tassazione per chi ha più figli, per chi è sposato rispetto a chi non è sposato e così via. Quindi noi abbiamo un sistema sostanzialmente basato su leggi, su regole ingiuste da questo punto di vista. Quindi ripeto che i fenomeni di frammentazione della famiglia e il fatto che le famiglie stiano andando alla deriva non è dovuto a delle scelte private, è che le famiglie si ritrovano queste condizioni strutturali di ingiustizia. Pensiamo all'IRPEF, pensiamo all'ISE, pensiamo anche all'IMU. Io mi rendo conto che la difficoltà del momento economico, della crisi, eccetera, imponga necessariamente certe scelte, e quindi anche a malincuore, per così dire, si adottano certe misure. Ma per esempio, con riferimento all'IMU, il fatto che ci siano delle detrazioni per quanto riguarda i familiari, i figli e così via. Però noi dobbiamo essere consapevoli che questo è un provvedimento che viene adottato per una situazione contingente che bisogna assolutamente modificare, perché necessariamente tutto il sistema fiscale dovrebbe tenere conto del fattore famiglia, cioè del fatto che ciascuno ha una capacità contributiva non in base a quello che percepisce individualmente, ma in base al reddito complessivo della famiglia. Capisco che questo porta al tema della soggettività tributaria della famiglia, che è un tema complicato, però quando noi abbiamo fatto la proposta del fattore famiglia, come sa bene il forum delle associazioni familiari che ha fatto inizialmente questa proposta, si è cercato appunto di evitare le questioni, come dire, costituzionali che potevano in qualche modo sollevare dei problemi a questo riguardo. E prendo lo spunto su questo aspetto per quanto riguarda anche la riforma dell'ISE. Ho osservato che il patrimonio che viene computato nell'ISE non tiene conto del numero dei figli, per cui ovviamente una famiglia che ha 5, 6, 7, 8 figli avrà una casa più grande, ma se ha la casa più grande ha più valore e quindi non rientra più nei parametri, diciamo così, dell'ISE. Evidentemente la prima casa dove una famiglia numerosa vive dovrà avere un riconoscimento equitativo, non uno sconto, non un particolare favore, una carità, ma un criterio di equità. E quindi sulla questione, come dire, di tener conto del fatto che gli individui non sono dei puri individui astratti, ma hanno delle famiglie e che quindi la loro possibilità di partecipazione alla società, quindi al contributo fiscale, ma anche al lavoro, ma anche al welfare, dipende dalla struttura familiare. E su questo quindi che bisogna, a nostro avviso, insistere, perché a livello degli enti locali, delle regioni, c'è una certa, in questo momento, voglia ma anche capacità di innovazioni. C'è una ricchezza di iniziative a livello locale che però è frenata da un contesto nazionale, una legislazione nazionale che spesso non consente a, soprattutto ai singoli territori di utilizzare questi criteri family friendly nei confronti delle famiglie per quanto riguarda la fiscalità, le tariffe, per quanto riguarda il lavoro, il welfare, i servizi locali e così via. Ecco. Termino appunto dicendo che, come già ricordava sia il Presidente Fini che il Ministro Riccardi, la famiglia è un soggetto sociale e noi non possiamo considerarla una variabile dipendente dal binomio mercato più tecnologie. Io so, essendo stato col collega Blangiardo a Parigi, all'OCSE, dove ci sono appunto programmi sia di analisi che di sviluppo delle politiche familiari, che c'è una tendenza molto forte in Europa, e qui dobbiamo avere la prospettiva europea, a far sì che, come dire, il futuro della famiglia sia giocato in dipendenza da dove va il mercato accompagnato alla tecnologia. Se il mercato si espande e la tecnologia si espande, cosa succede, cosa facciamo con la famiglia? Se il mercato ha una crisi, la tecnologia va in un modo, cosa facciamo? Ma questo non è un modo di ragionare. La famiglia deve essere considerata un fattore autonomo come sono autonomi gli altri fattori, ma non, certamente non possiamo mettere la famiglia a rimorchio del mercato e della tecnologia. Termino dicendo che sempre in accordo con quelli anche che sono gli orientamenti europei, il rapporto raccomanda il family mainstreaming. Noi abbiamo avuto per anni il gender mainstreaming, cioè l'idea delle politiche di genere, le pari opportunità uomo-donna, particolarmente nel mercato del lavoro, che sono un ottimo obiettivo e ovviamente un valore da perseguire. Ma il gender mainstreaming non può dare dei buoni risultati e ha effetti negativi anche sulle donne. Vedi i casi, per esempio, della Scandinavia, del tetto di mobilità alle donne che nonostante godano di ottime opportunità e pari opportunità non riescono a superare il ceiling, il tetto della loro mobilità sociale. Per quale motivo? Il motivo è molto semplice, cioè che il gender mainstreaming non tiene conto delle relazioni familiari, cioè che anche le donne hanno delle relazioni e che le loro decisioni e le loro scelte, le loro possibilità si giocano evidentemente nel mettersi d'accordo con le persone con cui vivono in famiglia. Quindi bisogna che il gender mainstreaming, le pari opportunità, siano affiancate, integrate, arricchite dal family mainstreaming, di cui si parla appunto lì nel rapporto. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a lei, professor Donati. Il professor Donati ha ricordato che l'associazione, professor Donati ha ricordato nel suo intervento che l'associazione delle famiglie, il forum delle associazioni familiari, ha lanciato negli anni scorsi alle forze politiche la proposta di introdurre il cosiddetto quoziente di reddito familiare, proposta che fu raccolta da alcune forze politiche, poi è rimasta tra le tante riforme che si dovevano fare e non si sono fatte. E allora, professor Belletti, ripartiamo da lì, se la politica vuole ridare un po' di contenuto o ci sono altre questioni ugualmente importanti, se non ancora più importanti. La lista è lunga. Tesi di fondo, sulle macerie della Seconda Guerra Mondiale, dovendo decidere come far ripartire un grande sistema paese europeo, vinto e vincitore insieme della guerra, una leadership strategica forte, lungimirante degli statisti, decisero di investire sulla famiglia. Non è l'Italia. Il progetto francese, in tempi di crisi, scelse di investire sulla famiglia come motore dello sviluppo. E poi decise coerentemente che l'obiettivo della natalità, dello sviluppo demografico, del rafforzamento della famiglia come motore del paese doveva essere mantenuto, sia che vincesse uno sia che vincesse l'altro. E noi questo cerchiamo, questo ci aspettiamo, crediamo che questo sia nelle possibilità di una classe dirigente che deve essere rinnovata, ma crediamo che questa sia la sfida più importante. Non possiamo salvare solamente banche e grandi aziende, dobbiamo ripartire dal cuore del paese, che sono le famiglie, la capacità di coesione sociale delle comunità locali, il grande genio creativo dell'impresa familiare, la valorizzazione dei distretti territoriali, quello sviluppo di comunità che è nel cuore della parola Alleanza per la Famiglia. Quindi la sfida rispetto anche al fattore famiglia, che è stata una proposta specifica, congiunturale, storica, riguarda questo nodo. E su questa, diciamo, tesi di fondo riprendo la mia scaletta, che parte dal ringraziamento alle istituzioni, perché questa è una bella giornata. È una giornata internazionale della famiglia che per la prima volta dal 1994 è stata assunta responsabilmente dalle istituzioni. L'ONU l'ha proclamata nel 1994, è stata una grande opportunità soprattutto per molti paesi in via di sviluppo che su una stimolo dell'ONU si sono giocati qualche riconversione, ma noi siamo una cultura un po' matura, un po' decotta, siamo un po' cinici nei confronti di queste grandi sfide, quindi portiamo a casa poco dagli stimoli europei. Quanto è cambiato in Italia dall'anno internazionale sulla disabilità, dall'anno scorso sul volontariato, insomma è come se non accettassimo queste grandi sfide. E il forum dal 2002 ha assunto questa giornata internazionale della famiglia come un'occasione, come un appuntamento pubblico. Per esempio qui in questa stessa sala abbiamo organizzato un convegno sul tema delle politiche familiari europee e però eravamo sempre, come dire, avevamo le istituzioni come fiancheggiatori. Oggi finalmente c'è stato un passaggio decisivo e segnalo che tra 2 anni ci sarà la celebrazione dei 20 anni dell'anno internazionale della famiglia da parte dell'ONU su 3 grandi priorità che sono il contrasto alla povertà, la conciliazione famiglia-lavoro e la solidarietà tra le generazioni, su cui lo stesso ministro Riccardi sta lavorando per l'anno europeo, e quindi credo che da qui al 2014 mi aspetto di ritrovarmi ancora con un panel in cui siano le istituzioni a custodire questo grande appuntamento. Diciamo che poi ci piacciono le buone notizie e ci sono, come dire, almeno 2 buone notizie. Un buon rapporto sulla famiglia, 2 volumi importanti. D'altra parte non è la prima volta che abbiamo queste buone notizie. La Commissione Affari Sociali della Camera nel 2007 produsse 800 pagine di audizioni, di lettura del familiare. Lo stesso professor Donati coordinò un altro giro di buone pratiche, sempre nell'osservatorio. L'impressione è che il vero nodo oggi nel Paese non sia sapere come stanno le famiglie. Ve le possiamo raccontare noi e se andate in giro per le piazze, cosa abbastanza auspicabile, forse è semplice capire quali sono i bisogni fondamentali. Quello che ci manca è collegare queste mappe con le decisioni operative. E quindi piano, finalmente un piano su cui si è lavorato tanto. Dicevo stamattina che è un po' ironico che questo piano sia stato, come dire, lanciato come prospettiva dal ministro Bindi di un governo di centrosinistra, gestito prevalentemente dal sottosegretario Giovanardi di un governo di centrodestra e finalmente assunto e portato a termine da un governo tecnico, con un ministro professore universitario che dice anche di un altro attore sociale importante. Ecco, questo è importante. Bisogna che le staffette siano virtuose, come peraltro il ministro Riccardi ha confermato. Ricordo un'altra staffetta importante, il piano asili nido del ministro Bindi, 100 milioni di euro per 3 anni per un piano straordinario sugli asili nido, che lo stesso ministro Giovanardi ha rifinanziato nei primi 2 anni di vita e poi ha azzerato, come quasi tutto si è azzerato in ambito di politiche sociali. Quindi anche su questo piano una staffetta. Abbiamo una grande preoccupazione, abbiamo l'idea che nel piano il fattore famiglia sia stato tolto. Il fattore famiglia nell'impianto del piano era il primo punto strategico, perché la linea di riferimento è: ci vuole un fisco più leggero, più equo a misura di famiglia, l'ha già spiegato il professor Donati, perché questo restituisce speranza, progetto ed equità a questo paese. Se il piano che verrà approvato, che è stato discusso e approvato dalla conferenza Stato-Regioni e che verrà presentato al Consiglio dei Ministri sarà sterilizzato dai contenuti, dagli impegni di spesa, da un impegno progettuale, da un orizzonte di gradualità nel tempo, noi non saremo d'accordo, no, noi non potremo sostenere questa scelta, quindi siamo contenti che ci sia un piano per la prima volta dopo 60 anni e preoccupati che il piano possa essere non alleggerito ma sterilizzato. Quindi ovviamente su questo però è anche chiaro che il piano peraltro mette in fila le grandi priorità, la conciliazione famiglia-lavoro, le politiche fiscali, il grande nodo dei servizi alla persona e ci piace anche che sia nel piano che in questa giornata ci sia la parola alleanza. La parola alleanza è la dinamica che noi crediamo salvi il Paese, non la contrapposizione degli interessi, non lo scontro tra interessi che non riescono a conciliarsi. Occorre un grande riconoscimento reciproco, occorrono grandi accordi di territorio, si riporta in qualche modo anche la soggettività dentro quelle reti locali che sono il genio del nostro paese. I distretti industriali li abbiamo inventati noi, ce li invidiano in tutto il mondo. Il nostro è un sistema che genera innovazione, genera capacità di aggredire i mercati esteri anche a partire dalle piccole aziende. Qualcuno ci dice che piccolo è brutto, qualcuno ci dice che la globalizzazione chiede grandi dimensioni. Ma se invece di chiudere l'Istituto del Commercio Estero diamo queste infrastrutture di governo pubblico alle nostre piccole imprese, le nostre piccole imprese sono ancora capaci di esportare. Quindi lo sviluppo di comunità, ma lo sviluppo di comunità è radicamento, è restituzione alle comunità locali di responsabilità di impresa. Vuol dire che noi dobbiamo costruire i meccanismi di premio per chi decide di non delocalizzare, per chi decide di investire sul bene lavoro e non sulla finanza. Non può stare una tassa come l'IRAP che cresce al crescere del numero dei dipendenti. Dobbiamo assolutamente costruire meccanismi che privilegino chi genera lavoro e radicamento territoriale e contrastando questi grandi trend di globalizzazione che sembrano guidare senza grandi possibilità di difesa il nostro paese. Noi per esempio sull'alleanza locale per la famiglia in Germania ne hanno 670, abbiamo fatto un piccolo esperimento a Parma con una città che dal 2003 collabora col forum sull'esperimentazione. La sperimentazione di Parma ha generato molte cose, una grande capacità di inventare qualcosa anche sulle politiche tariffarie, si è interrotta perché l'amministrazione è stata commissariata per malversazione politica e amministrativa. Noi ci consideriamo parte lesa. Come si considera parte lesa la parte del comune che ha lavorato con noi in piena onestà e dirittura, per cui la sperimentazione sulla famiglia è rimasta integra rispetto a questo grave incidente. Però dico, qual è stato il ventre molle di quello sviluppo di comunità? Sono state le famiglie, le associazioni familiari, il terzo settore o forse il sistema pubblico amministrativo? Quindi qui la criticità è anche è quello che chiediamo a questo governo, è riconoscere che per far ripartire il Paese bisogna restituire speranza, progetto e investire su quel settore che sembra invisibile, i mondi vitali, le famiglie, la speranza e la fiducia dei giovani, il terzo settore. Restiamo ancora convinti che la chiusura dell'agenzia del terzo settore sia stato un errore, perché è stato un segnale di allontanamento da uno dei cuori di sviluppo del nostro paese e tra l'altro di quelli che fanno business, fanno occupazione diffusa dentro il vivo delle comunità locali a sostegno della coesione sociale. E tra l'altro sulle famiglie, inutile dirlo, senza la tenuta delle famiglie questa crisi avrebbe avuto un impatto micidiale. Però confermo quello che ho detto stamattina, la famiglia, come ha detto anche, devo dire con qualche sorpresa, anche il Presidente Fini ho sentito, la famiglia non vuole essere l'ammortizzatore sociale del Paese, non è il suo mestiere, la famiglia è il luogo generativo del sociale e il motore di sviluppo del Paese. Dico sorprendentemente perché ogni tanto qualche riscontro di linguaggio con la politica purtroppo è stupefacente per chi vive nel sociale. E devo confermare qui, peraltro, che qui è proprio per questo che deve essere rinforzato il patto di alleanza tra famiglia e società. Per questo l'articolo 29 della Costituzione è fondativo. Per questo il modello di famiglia non è senza significato. Per questo la responsabilità pubblica di un impegno assunto davanti al sindaco col tricolore fa parte del fare famiglia. Un uomo e una donna che accettano il compito generativo e che si assumono compiti e responsabilità verso la società. Definizione antropologica di Lévi-Strauss, peraltro, e non della dottrina sociale della Chiesa. I tre pilastri sono fisco, welfare e lavoro. Dico solo quattro battute perché ormai siamo a livello della telegrafia. Sul fisco è assolutamente urgente restituire un alleggerimento della pressione fiscale a misura di famiglia. Bisogna restituire speranza e progetto. È inaccettabile che nel nostro paese il terzo figlio sia un predittore di povertà per una famiglia su due. Questo è un dato che da tanti anni sappiamo, aspettiamo azioni su questo. Il fattore famiglia è una delle modalità. Sul lavoro crediamo che la riforma del mercato del lavoro oggi in discussione debba colorarsi ancora di più di conciliazione, cioè deve diventare, come dire, un fattore strategico, e questa è una sfida non solo per la politica, non solo per il ministro Fornero, ma anche per la cultura d'impresa, perché è vero che gli uomini nell'azienda privata non vanno a lavorare, non prendono i congedi parentali, ma prima di tutto perché si sentono dire: ma non hai una moglie che lo fa al tuo posto. Prima di tutto perché se già una donna è penalizzata se fa conciliazione, figuriamoci un uomo. Quindi è una grande sfida culturale di un'alleanza per la famiglia, non è solamente un problema di legge o di risorse. E quindi è chiaro che la partita è alta. E poi sul tema del lavoro sono sui giovani che bisogna investire, ma su questo qualche speranza, devo dire, ce l'ho nell'attuale rimodulazione della riforma. Sul tema dei servizi non posso non ricordare che il nostro è un sistema di sussidiarietà verticale dove regioni e comuni cantano e portano la croce di questi tempi, cioè hanno subito progressivi tagli, e anche la vicenda dell'IMU, lasciatemelo dire, non è appropriata. L'IMU dovrebbe essere una tassa squisitamente municipale, così se un sindaco la aumenta io non lo voto, a meno che non la usi bene, e devo capire dove vanno i soldi. Un fisco realmente decentrato consente questo. In questo modo così pasticciato non è chiaro. E poi magari rivedere alcune cose, per esempio nella precedente versione dell'ICI chi non affittava l'appartamento pagava più tasse, oggi affittare o non affittare non fa nessuna differenza. Non va bene, perché il bene casa è un bene insostituibile per fare famiglia. E un'ultima cosa sempre riguardo all'IMU, noi abbiamo speso tanti mesi a lavorare sui nostri modelli econometrici di fattore famiglia, i pesi dei singoli figli, abbiamo utilizzato varie ricerche e abbiamo costruito un modello che poi con la politica abbiamo discusso. E la riparametrazione dell'IMU è stata forfettariamente definita sulla base di un incremento forfettario del 60% degli estimi catastali, che ha generato un ulteriore pesantissimo impatto. Allora, forse la credibilità va riscossa un po' da tutte le parti. Quindi se facciamo un'alleanza dobbiamo metterci attorno a un tavolo e guardarci in faccia. E chiudo con una ulteriore sollecitazione. Abbiamo bisogno anche di una radicale riforma dell'amministrazione pubblica, cioè abbiamo bisogno di maggiore decisione. Ci troviamo come famiglie di fronte ad alcune scelte che non vengono chiuse. Chiudiamo la partita delle province, semplifichiamo il sistema, siamo più coraggiosi nei tagli alla politica, non possiamo vedere il balletto delle cifre quando per esempio la trasmissione Zapping raccoglie centinaia di migliaia di firme sul taglio, sul dimezzamento del numero dei parlamentari, sul dimezzamento dei vitalizi. Insomma, questa è un'operazione che va fatta con molto più coraggio e questa è una grande chiamata alla responsabilità. E poi torniamo ai comuni. Il mio sindaco, se mi aumenta l'IMU, ho facilità di votarlo o di non votarlo, e poi dopo due mandati si interrompe. Allora io credo che questa idea della politica come carriera deve essere cambiata e deve diventare la politica come servizio, e quindi forse una sfida anche all'idea che alla politica si chieda di rientrare nel vivo dei circuiti delle associazioni, dei circuiti dei mondi vitali, e per trasformarla nuovamente in servizio e in dialogo con la società civile. Purtroppo questa oggi la sfida è molto grande. Io credo che la partita famiglia debba essere rimessa al centro dell'agenda del Paese. Apprezziamo molto la presenza di tre ministri, apprezziamo molto il piano in fase di approvazione, e peraltro è tempo di restituire alle famiglie quello che hanno dato finora. Allora, credo che l'intervento del professor Belletti, con la sua ruvida chiarezza, definiamola così, abbia posto alcune questioni ineludibili, non soltanto al governo, ma più in generale alla politica. E anch'egli ha ripreso la soddisfazione con la quale avevo salutato il fatto che ben tre ministri siano qui quest'oggi a confrontarsi con l'osservatorio, con l'associazione delle famiglie, sui temi della crescita del Paese attraverso la centralità dell'istituto familiare. I due ministri Fornero e Barca hanno l'onore, ma alla luce di quel che è stato detto anche l'onere, di concludere il convegno. Ministro Fornero. Grazie Presidente. Io credo che quando si riflette di famiglia, soprattutto a una certa età, non si può non considerare quanto della nostra vita personale trascorsa sia dipeso dalla famiglia nella quale si è cresciuti e dalla quale si è avuto la prima educazione e la trasmissione di valori che poi ti accompagnano tutta la vita. C'è sicuramente una fase della vita in cui la presenza, l'essere inseriti nella famiglia appare soprattutto una successione di vincoli, di restrizioni alle libertà, di condizionamenti. C'è un'altra fase che io ho raggiunto nella quale tutte le cose che sono state vissute come condizionamenti appaiono invece come radicamenti forti, come valori che non sono più cancellabili, che sono parte del tuo patrimonio. C'è quindi un tempo nel quale avere avuto la fortuna di una famiglia solida sembra la cosa forse più importante che uno abbia avuto come dote nella propria vita. E io credo veramente che l'integrazione, qui non, io faccio l'economista, temporaneamente il ministro, ma quindi non vorrei citare studi che non conosco, ma credo che si possa affermare su solide basi di carattere psicologico, ma anche su studi economici che ormai sono frequenti e che costituiscono un patrimonio di ricerca piuttosto vasto, credo che si possa dire che l'integrazione di un individuo nella società dipenda molto esattamente dalla famiglia di origine, da quanto questo individuo riceve nei primi anni di vita esattamente dalla famiglia e dai valori che ottiene, morali e civili, molto più che non economici, e di questo dirò qualcosa subito dopo. Però la famiglia è in crisi, è stato detto tutti gli interventi prima di me, e la famiglia, almeno la famiglia tradizionale come l'abbiamo conosciuta, come quella nella quale io ho vissuto. E questa crisi è una crisi molteplice, è una crisi di identità, è una crisi di valori ed è una crisi economica. Io voglio dire la crisi di identità. La crisi di identità deriva dal fatto, rispetto al quale noi non possiamo chiudere gli occhi, che la famiglia tradizionale, quella fatta di un marito, una moglie, due, tre figli, rischia di diventare l'eccezione, non è più la regola. Oggi le famiglie si fanno e si disfano con molta facilità. Quella tradizionale neppure si forma. Perché? Perché ci sono coppie di fatto che chiedono di essere considerate famiglia. Ci sono, e io qui devo ricordarlo, ci sono coabitazioni di persone dello stesso sesso che chiedono di essere riconosciute come famiglia. Allora io so, e non lo posso dimenticare, spero che non l'abbiate fatto voi quando mi avete invitata, che io qui sono ministro del lavoro, delle politiche sociali, ma anche delle pari opportunità. Io credo che si debba dire che quando noi consideriamo questa realtà mutevole, al di là delle nostre convinzioni, al di là delle nostre preferenze, al di là dei nostri valori morali, religiosi, io credo che noi dobbiamo sforzarci di distinguere nella nostra analisi, anche nella nostra richiesta di cambiamenti normativi, dobbiamo sforzarci di distinguere la parte che è riconducibile al sistema di valori che abbiamo dentro di noi, che portiamo dentro di noi, da quello che consideriamo una visione aperta e una visione nella quale tutti richiedono pari opportunità e tutti richiedono diritti. Col che io non sto dicendo, non sto pronunciandomi in alcun modo a favore di una cosa piuttosto che di un'altra. Voglio solo dire che quando parliamo di famiglia, il problema dell'identità familiare esiste e noi non lo possiamo dimenticare e non possiamo far finta che sia una definizione rapidamente presa e trovata o molto riaffermata in testi possa risolvere tutti i nostri problemi. La realtà è molto più complessa e di fronte a questa realtà noi abbiamo il dovere di riflettere e il dovere di considerare con mente aperta che i problemi esistono e metterli sotto il tappeto non è una buona pratica. Però c'è anche una crisi di valori. Io parlavo prima della trasmissione di valori morali, valori etici nella famiglia, quelli che ti fanno sentire parte della società, che ti fanno considerare gli altri come consideri te stesso. Però noi, anche qui, non dobbiamo dimenticarlo. Noi abbiamo famiglie oggi che considerano più importante trasmettere beni patrimoniali, ricchezza materiale, che non ricchezza morale, che non educazione ai propri figli. Anche qui credo che, di nuovo, noi non possiamo nasconderci che esistono modelli che la sociologia ha illustrato molto bene, diciamo il modello della villetta, dove la villetta appare più importante di quello che riesci a trasferire in termini di patrimonio educativo ai tuoi figli. Forse anche qui c'è qualche distorsione di modelli di vita e forse anche qui c'è qualche ripensamento che dobbiamo fare, perché noi non possiamo dimenticare che nella famiglia la nostra principale considerazione, è stato detto anche prima, la famiglia è il modo in cui la società perpetua se stesso, ma nella famiglia noi abbiamo e dobbiamo avere considerazione ai minori. I genitori prendono le decisioni per i loro figli. La società non può trascurare il fatto che molti genitori oggi sono impreparati, inadeguati a prendere decisioni giuste nei confronti dei loro figli e quindi è compito delle istituzioni aiutare le famiglie a interpretare bene il ruolo dei genitori. Io prima di venire qui sono stata al Senato, alla Commissione per i diritti e ho discusso la situazione dei Rom, sinti camminanti. Ci sono molti problemi in questa inclusione, anche quelle sono famiglie. Ma noi non possiamo dimenticare che spesso, per esempio, le ragazze e bambine sono indotte a fare cose che probabilmente non sceglierebbero, sicuramente non sceglierebbero, se avessero piena consapevolezza e se avessero altre opportunità. Noi ci dobbiamo occupare delle famiglie perché scelgano nel momento in cui scelgono su bambini, scelgano comportamenti, effettuino comportamenti che sono nell'interesse di lungo periodo delle persone singole e di quando quei bambini saranno grandi e saranno quindi naturalmente inseriti nella società. Ma anche in questo caso noi non credo che possiamo semplicemente dire che le famiglie oggi sono in grado di svolgere questo compito educativo, quando credo che sia sotto gli occhi di tutti è il fatto che ci sono molti genitori impreparati. Ed è un compito, ripeto, delle istituzioni quello di aiutare i genitori a essere migliori genitori. E poi c'è una crisi economica della famiglia. E anche qui bisogna, vorrei dire, fare molta attenzione alle risposte che diamo. La crisi economica delle famiglie è un riflesso nel micro di quello che è la crisi economica più generale, macroeconomica, che viviamo da ormai molto tempo e che sembra farsi ogni giorno più severa. Noi parliamo di welfare. Il welfare noi lo dobbiamo intendere come una sorta di immunizzazione della capacità di acquisto delle famiglie rispetto a shock esogeni che succedono. Shock che possono essere, intendo, uno shock positivo. La nascita di un figlio è uno shock positivo. È un evento, se non volete il termine shock, perché può essere programmata, può essere, ma è anche uno shock positivo. La nascita di un figlio comporta che le famiglie spendano di più e comporta che le famiglie abbiano servizi. Altrimenti cosa succede? Succede che uno dei due genitori, e normalmente questa è la madre, considera impossibile proseguire nell'attività lavorativa perché non ci sono servizi e qualche volta non ci sono genitori a cui affidare il bambino e quindi la madre sacrifica il proprio lavoro, il suo lavoro, alla nascita di un figlio. Questo può essere anche uno dei motivi per cui alcune donne preferiscono non avere figli. Ma noi dobbiamo evitare questo. Noi dobbiamo evitare che le donne siano messe nella condizione di scegliere tra la maternità e il lavoro. Questo è. E noi dobbiamo evitare che le donne considerino culturalmente che la nascita di un figlio sia un evento da portarle a trascurare il lavoro, a lasciare il lavoro. Il primo ammortizzatore sociale, lo voglio dire con molta chiarezza, il primo fattore di contenimento del rischio di povertà è il lavoro di entrambi i coniugi, è il lavoro di padre e madre. E perché questo? Per una banale considerazione di diversificazione del rischio. Se uno dei due perde il lavoro, almeno l'altro ha un lavoro. Possibilmente i due non faranno lo stesso lavoro, quindi vuol dire che saranno soggetti a rischi di diversa natura e quindi lavorare entrambi è il primo, e statisticamente si vede, è il primo fattore di contenimento del rischio di povertà. Allora io di nuovo sono anche ministro delle pari opportunità, l'ho detto prima, anche nella nostra modulazione del fisco, noi dobbiamo fare attenzione a non scoraggiare il lavoro delle donne, perché guardate, il lavoro delle donne qualche volta è penalizzato da strutture fiscali che fanno sì che l'aggiunta di reddito venga più che proporzionalmente colpita. Allora è giusto tenere conto del fatto che ci sono famiglie monoreddito che con figli soffrono dal punto di vista economico più di altre, ma non bisogna modulare il fisco in modo da scoraggiare il secondo reddito nella famiglia. Non dimentichiamo anche che questo solitamente è per i bambini una occasione. Con servizi che funzionano, i bambini che stanno negli asili, stanno nelle scuole materne, frequentano, hanno occasioni, può anche non piacere questo, lo credo. Però è dovere di un ministro, ripeto, del lavoro e di un ministro delle pari opportunità, parlare del lavoro delle donne con la stessa dignità che ha il lavoro degli uomini, la stessa importanza che ha il lavoro degli uomini. Questo, io ripeto, considero che sia un fattore fondamentale per l'equilibrio della famiglia, per l'equilibrio dei bambini all'interno della famiglia. E quindi, lo voglio dire, noi abbiamo inserito all'interno della riforma del mercato del lavoro, abbiamo inserito molte norme che credo vadano nella direzione di favorire il lavoro di tutti quelli che oggi soffrono di condizioni di svantaggio nel mercato del lavoro, che sono i giovani e le donne, oltre che i lavoratori anziani. Quindi noi speriamo e crediamo di avere inserito elementi che tendono a rimuovere questi ostacoli, ma abbiamo anche inserito elementi di conciliazione dei tempi di lavoro e di famiglia che, e qui aggiungo l'ultima cosa che voglio dire, che per me devono essere validi per uomini e donne nello stesso modo. Io non ritengo che sia corretto parlare della conciliazione soltanto per le donne. Dobbiamo attuare politiche di conciliazione in modo da favorire le donne che possano conciliare. I paesi che attuano serie politiche di conciliazione hanno realizzato anche modelli di welfare, non solo statali, non solo pubblici, ma anche aziendali, che permettono anche agli uomini di prendersi cura dei bambini, che organizzano il lavoro, la progressione di carriera, in modo che i padri possano effettivamente fare i padri e non solo essere, diciamo così, quelli che portano a casa il pane quotidiano. Perché il pane quotidiano lo si deve portare in due, lo si deve distribuire in due nella famiglia. Questo vuol dire che noi dobbiamo, è vero, abbiamo fatto poco nel decreto sotto questo profilo, abbiamo fatto poco e troppo poco, però qui dobbiamo ricordarci che i nostri vincoli di bilancio sono molto, molto stringenti. Ma io credo che si possano cambiare i comportamenti, i giorni di congedo, ahimè, signora, costano, ma io credo che i comportamenti si possano cambiare anche attraverso piccoli atti. E quello di aver detto che noi rendiamo obbligatorio almeno un giorno di congedo di paternità, con la facoltà per il padre di prenderne due dal numero di giorni di congedo attribuiti alla madre, credo che questo vada almeno nella direzione di far riflettere sull'importanza della presenza di entrambi i genitori nell'educazione dei figli e non soltanto nella tradizionale divisione dei ruoli, che fa sì che uno sia sempre assente e l'altro spesso sia frustrato. Questo è un modello che dobbiamo superare e noi ci stiamo provando. Ci stiamo provando con la convinzione. Io sono partita con una dichiarazione personale. Io sono partita con una dichiarazione che riguarda la mia famiglia di origine, ricca di valori, non di ricchezze materiali, trasmessi a me. Ma credo, l'ho detto prima, che bisogna riuscire a trasmetterli anche innovando il sociale. Perché il sociale cambia anche quando noi non vogliamo riconoscere i cambiamenti. Il sociale cambia perché le spinte sono tante e i diritti e le opportunità debbono essere equamente distribuiti. Grazie. Grazie Ministro Fornero. Ministro Barca, a lei la conclusione. Molto piacere essere qui, mi fa piacere ancora di più potendolo fare a valle del lavoro che ho avuto il piacere di svolgere con Elsa Fornero, con Andrea Riccardi, col sottosegretario Guerra, con il ministro Balduzzi nei giorni scorsi per fare qualcosa di significativo finanziariamente, anche se certamente di limitato, a cui ha già fatto riferimento Andrea Riccardi. Prima di accennare a questo, e per dargli un senso, lasciatemi dire che la famiglia quel grumo fertile di relazioni solidali ed empatiche fra conviventi, che così chiamiamo, è certamente un pezzo importante, anche se non il solo, della capacità o non capacità del nostro Paese in questa fase di rispondere con coraggio, una parola che è stata usata in modo importante nei giorni scorsi, e con fiducia, che io amo usare, alla fase difficile che stiamo attraversando. Come è stato detto autorevolmente, di non soccombere alla deriva della solitudine individuale e pensando a persone che conosciamo tutti, di non essere soli di fronte a sconfitte, umiliazioni e mortificazioni, perché perdere il lavoro, anche quando non è possibile altro che far così, perché mollare un'aziendina piccola che si è costruita perché non si riesce a pagare i debiti, sono fonti di mortificazione, sono quelle cose che fanno pensare a una donna, a un uomo, come lo racconto ai miei figli, a mio padre, come glielo dico, sono fallito. Quella perdita di dignità che è ancora più grave della perdita economica in un paese che non ha delle situazioni o che le ha limitate, situazioni di indigenza, che sono a volte più gravi e più ancora frustranti. Come si risponde a questo fatto? Come si riguadagna? Come si ridà? Come può un governo, parliamoci con franchezza, concorrere, aiutare, contribuire, dare il suo piccolo contributo alla ricostruzione di questa fiducia, di dire ce la facciamo, si può fare? Lo fa con misure, evidentemente, ma lo fa anche, prendetela queste mie battute come una premessa delle poche cose che voglio dire, con un metodo. Il metodo non costa, le misure costano. La difficoltà di agire, lasciatemelo inquadrare ognuno come dice il Presidente Monti con la sua cultura, la difficoltà di agire deriva dal fatto che sulla famiglia italiana gravano, diciamo, due pressioni, una di natura strutturale, che non è di oggi, una è congiunturale. Quella strutturale ha due facce, ha due dimensioni. Intanto la famiglia è investita, è stata investita in maniera fortissima dall'accelerazione del processo di diffusione a tutte le relazioni umane della logica di mercato. Logica di mercato che è propria del capitalismo, che è anche quello che ci ha regalato l'allungamento della vita, ci ha regalato tecnologie straordinarie, ma ci regala anche un regalo avvelenato, che è quello che le nostre relazioni umane sono e divengono sempre più relazioni di mercato. È quella tendenza alla trasformazione della famiglia in impresa, che ha tra l'altro non poco a che fare con la crisi che viviamo. L'istruzione dei figli non diventa la gioia di dargli istruzione in casa o di dargli istruzione fuori, diventa l'angoscia e l'ansia e l'indebitamento per cifre irragionevoli, che poi sono quelle che conducono a non farli i figli, per dare loro un'educazione, perché dimenticandosi Adamo Smith, l'istruzione non è più concepita come un modo, uno strumento fondamentale per diventare cittadini, ma come capitale umano, questa terribile parola, a mio parere. Lo diventa perché per l'angoscia di avere una casa sempre più grande, irragionevolmente più grande e nuova, e quindi debiti ancora, sappiamo che il meccanismo della finanza e dell'edilizia è dietro, è un pezzo importante della crisi in cui stiamo, e ancora di più, lasciatemelo dire, perché conduce a prendere decisioni di non fare dei figli nello stesso modo in cui una famiglia proletaria di 150 anni fa decideva di farli. Li faceva per far soldi, adesso li fa per non aver debiti. Sono due logiche entrambe inappropriate. Uno non fa figli e si decide di non farli, non è mica un obbligo a far figli, ma deve essere libero, quella che Amartya Sen chiama la libertà sostanziale di decidere se fare o non fare, non una costrizione che viene magari da un sistema di valori che si impone in una fase come egemone. Questa è una pressione. L'altra, la faccio più rapida perché la conoscete, è ben illustrata nel bel documento, è la pressione demografica e la trasformazione demografica, che la demografia, questo strano animale, io sono laureato in demografia, quindi è il frutto di decisioni e poi le determina, quindi è uno strano trasmettitore, una scinghia di trasmissione. Oggi, qualunque siano le ragioni, produce, come è stato ricordato da Donati, famiglie mononucleari in elevata quantità, appesantisce soprattutto la donna, specialmente in quella fase di vita intermedia in cui devi occuparti tanto dei figli che non sono ancora usciti o che non riescono a uscire di casa perché ci sono problemi di lavoro, tanto degli anziani, sempre più anziani, e quindi stressando le persone in una fase decisiva della loro esistenza. Toglie, come racconta un mio amico demografo, una piccola cosa ma importantissima, quello strumento decisivo della crescita dei ragazzi, che era il fratello maggiore, la sorella maggiore, che era un elemento fondamentale di trasferimento e di trasformazione, non cito quella degli anziani, ma che era decisiva, e molto più brutalmente da economista quale pure sono, rende obsoleto il patrimonio edilizio, perché la gente vive in case che sono per il 75% state costruite in epoca che non ha nulla a che fare col quindi, come dire, un problema. E poi le due facce congiunturali che conoscete, quella di cui parliamo un po' di meno da un po' di tempo a questa parte, ma dovremmo ricordarci, il paese è fermo da oltre 10 anni, non aveva bisogno della crisi per fermarsi, è fermo perché aveva dei problemi evidentemente, adesso la manifestazione è più eclatante, il paese non ha la produttività che non cresce, ha la crescita mancata, ha fasce di reddito che sono andate indietro, tutte le cose che conosciamo, ragazzi che entrano con un salario di entrata che è più basso, poi sono quel tipo di considerazioni che ha condotto questo governo e Elsa Fornero in particolare al disegno di quella riforma. E poi l'effetto invece immediato, che è quello di ora, che quando aggiusti, l'aggiustamento, quando arriva la generazione che aggiusta, quella generazione paga uno scotto. E evidentemente questo cosa determina dal punto di vista che stressa quella rete di sicurezza della famiglia? La stressa in un aspetto che avete già richiamato, che è quello della capacità di affrontare le povertà attraverso trasferimenti interfamiliari, conoscete benissimo le bellissime statistiche della Banca d'Italia sul bilancio delle famiglie, siamo il paese di tutti i paesi occidentali che ha il massimo di trasferimenti infrafamiliari, che compensa per un sistema del credito che è meno capace. E questa minor capacità è diventato però un vantaggio perché quel sistema del credito è andato oltre, ha prestato troppo perché ha costretto a indebitarsi. Quindi vantaggi e svantaggi. Però vorrei ricordare un altro aspetto che in questi giorni purtroppo spesso è all'onore delle cronache più tristi, che vediamo anche nel viso dei loro familiari, ed è che stressa la rete di salvataggio delle piccole imprese. Ricordiamoci che noi siamo un paese dove la finanza non entra nella piccola impresa, la piccola impresa nasce dai soldi dello zio, del cugino, del nipote, il 16% delle famiglie italiane ha un imprenditore e quell'imprenditore i soldi li trova così, i numeri ci dicono questo. Ovviamente quella è stressata la famiglia anche come strumento di produzione. Come strumento di crescita della produttività. Il che fare, mi concentro su una cosa, è evidente che tra le cose da fare a cui avete fatto riferimento ci stanno quell'attenzione che andrebbe posta a tutte le forme svantaggio che oggi derivano alla famiglia così come l'ho definita, quindi alle nuove, alle vecchie forme di convivenza, senza distinguere per carità fra famiglie buone o famiglie meno buone. Ma questo è un campo difficile su cui voi avete messo sul tavolo delle osservazioni di estremo interesse, che io credo sono la ricchezza delle ragioni di rapporti come questo. Io faccio riferimento invece a un altro profilo, che è quello che ho avuto la fortuna con i miei colleghi di trattare, e riguarda l'intervento che abbiamo compiuto non più tardi di 3 giorni fa sui profili dell'infanzia, della cura dell'infanzia e della cura degli anziani non autosufficienti. Lasciatemi dire una battuta di metodo, lì ci sono un sacco di soldi, sono molti. Sono 730 milioni di euro per sole 4 regioni del paese, un dimensionamento che consente in quelle regioni, che sono quelle del sud, dove è più drammatica è la situazione che riguarda i nidi. Abbiamo situazioni in cui stiamo attorno all'1,5, 2, ne parlavamo con Andrea l'altro giorno, tassi di copertura dell'infanzia, quando abbiamo valori al nord che sono del 20 e del 25. Come può essere libera una donna di Bari o di Messina che sta all'1,1% di scegliere che cosa fare? Magari non lavora, ma deve essere sua libertà di scegliere di non lavorare, non il frutto di un obbligo, da un lato. Quindi una mole finanziaria estremamente significativa. Bene, questa operazione a cui vengo tra un istante, ma non vi preoccupate, ho solo una battuta, mi interessa sottolineare il metodo. Perché ritrovate nel metodo che troverete guardando nel web il documento che abbiamo nel web del governo, ritroverete molte delle cose che voi avete scritto nel secondo volume di questo importante, cioè delle pratiche che sostanzialmente intercettano, sfruttano, valorizzano quella reazione vivace delle piazze, dei territori fatta di cittadini, di non profit, di privato sociale e dei comuni, che sono lo strumento che ci consente di essere ottimisti, ci consente di sapere che non stiamo versando i fondi in una specie di buco nero, perché di annunci di soldi finanziari qua se ne fanno tante, perché noi stiamo, come vedrete da quel testo, come dire, cercando di sfruttare le buone pratiche sul tipo di quelle che voi avete illustrato in questo documento. quasi, mi verrebbe voglia di dire, sfruttando il ritardo del welfare italiano, nel senso di costruire passo dopo passo dei meccanismi di welfare partecipato, dove gli aspetti di partecipazione non riguardano solo la produzione del servizio che coinvolga pubblico, privato e privato sociale, mai, come dice sempre il Presidente Guzzetti, mai immaginando il privato sociale come sostitutivo dell'intervento pubblico, ma sempre esclusivamente complementare sia sul piano delle competenze che sul piano dell'intervento e del volontariato, però mi permetto di dire uno schema dove anche partecipazione vuol dire anche il ruolo dei beneficiari, dove si senta la voce di chi alla fine riceve, voce che può essere diversa da una città e un'altra, perché in città, il nostro è un paese di 1000 città, dove i modi con cui si vuole andare avanti o erogare il servizio d'infanzia o con cui si ritiene che gli anziani, non ha senso più in un paese come il nostro discutere se gli anziani stiano meglio a casa piuttosto che in strutture residenziali, potremmo discutere un secolo, è importante che i cittadini possano praticare la scelta che avvertono più rispondente alle proprie preferenze, al proprio disegno e poi magari cambiare. Questo metodo ha una parola nobile, è la parola sperimentalismo, che ci viene, guardate caso, ogni tanto quel paese è mille facce, viene dagli Stati Uniti, dove queste pratiche di forme, di organizzazione mista tra pubblico e privato sociale, con quella mobilizzazione del volontariato che gli Stati Uniti sanno trovare in quel loro modo peculiare, è un elemento che noi cerchiamo di valorizzare nel modo in cui abbiamo disegnato questo intervento. Accanto ad esso c'è anche un welfare orientato al risultato, lasciatemela dire così, perché anche siamo in un mondo in cui i fin di finanza, l'ha ricordato il Presidente Fini, ce n'è penuria. E ci sono due modi per affrontare la penuria, sul secondo chiudo. Il primo dei modi per affrontare la penuria è essere sicuri che l'efficacia di ogni euro che spendiamo sia la più alta possibile, poiché noi non abbiamo la conoscenza rivelata, perché siamo ignoranti, perché sono ignoranti tutti i livelli di governo, perché abbiamo capito rispetto al welfare paternalista degli anni 60-70, che pure abbiamo amato, che noi siamo ignoranti e quindi dobbiamo praticare, cambiare, ripraticare. Però è giusto che la gente valuti se i risultati che vengono messi in campo sono significativi, sulla base dei parametri, degli indicatori di qualità della vita che i territori ritengono di valutare. Questo metodo, che mi permetto di dire è un metodo europeo e comunitario, di nuovo cerchiamo di usare in questo impianto. Chiudo con una sola battuta. C'è quindi in questo metodo un ruolo centrale dei comuni del privato sociale e la tentativo di aprire, uso una parola di Hirschman, alla voce dei cittadini, c'è un tentativo di raccontare e di descrivere obiettivi misurabili che consentono anche a voi, tra 6 mesi e un anno, di vedere quanto poi di quello che abbiamo detto è diventato fatto, ma c'è anche, dell'ultima battuta su cui vorrei chiudere, un altro modo di affrontare la penuria, attraverso una forma, lasciatemelo dire, di spending review, quella che il mio collega Giarda nel suo documento a pagina, credo, 14, definisca la prima delle tipologie di spending. Una tipologia di spending, nella definizione del tesoro di Sua Maestà la Regina, consiste nel fatto di togliere soldi a cose meno utili o obsolete o meno efficaci e metterle su cose più utili, più efficaci. Da dove sono venuti questi 730 milioni? Credo che questo sia interessante. Noi l'abbiamo tolti ad altre destinazioni, perché non ce n'erano di aggiunte. Perché l'abbiamo usati solo per le 4 regioni del sud? Perché erano le uniche dove c'era un problema rilevante? No, era dove era più serio, ma perché lì avevamo dei fondi non spesi, avevamo un giudizio severo sul fatto di come questi fondi venissero utilizzati. Nel resto del paese abbiamo messo in campo le risorse che Andrea Riccardi aveva, non più tardi di una settimana prima, mobilitato su queste finalità e risorse aggiuntive. Lì abbiamo potuto fare di più perché lì abbiamo disinvestito di più. Cioè noi abbiamo tolto fondi a eventi, ad assistenze tecniche che ritenevamo inefficaci, alla portualità turistica dove è bene che i soldi ce li mettano i privati, francamente abbiamo fatto quello che fa un governo normalmente, cioè abbiamo avuto una gerarchia di priorità. Grazie. Allora, vista la qualità degli interventi di Pierpaolo Donati, Elsa Fornero, Andrea Riccardi, Fabrizio Barca e Francesco Billetti, sarebbe davvero imperdonabile sinonimo di presunzione tentare di concludere. Io voglio ringraziare nuovamente tutti i relatori ed esprimere un auspicio, l'auspicio che, come è avvenuto quest'oggi, il confronto tra varie opzioni di carattere culturale che sono emerse, tra varie istituzioni, il confronto sul rapporto tra la famiglia, la coesione sociale e la ripresa economica continui con la stessa serietà e con la stessa passione delle due ore che abbiamo trascorso e che, come avevo detto all'inizio, hanno rappresentato certamente un bel momento di confronto politico nel senso più pieno ed alto del termine. Grazie.